Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il mio cliente propone un periodo di ripensamento. La mia cliente non ha intenzione di ripensarci. Il mio cliente chiede di non avviare la procedura prima che certi suoi affari siano conclusi. Non punzecchiarmi, Miles. Coraggio, se hai una proposta da fare, falla. Beh, a questo punto il mio cliente valuterebbe ancora la riconciliazione. La mia cliente lo esclude. Il mio cliente potrebbe anche considerare la separazione senza colpa di nessuno. Tu apri bocca e dai fiato. Il mio cliente propone un periodo di ripensamento. La mia cliente non ha intenzione di ripensarci. Il mio cliente chiede di non avviare la procedura prima che certi suoi affari siano conclusi. Oh, che cacchio avete da ridere? Piano, ci penso io adesso. Va bene, ci siamo divertiti abbastanza. Che chiedete, Fred? La mia cliente si accontenterebbe del 50% dei beni del coniuge. Solo il 50, Freddy? Perché non il 100? O già che sogniamo... Cari amici, per molti di voi è finita la pacchia, per altri probabilmente finisce anche un incubo. Non è un pesce d'aprile, anche se i giorni erano quelli, ma il 3 aprile la prima sezione civile della Cassazione ha emesso una sentenza, in particolare la 6855, che cambia un po' qualcosa su quelli che sono i lancinanti iter del mantenimento dopo che una coppia esplosa, che non ha più ragione di esistere. In sintesi ha detto la Cassazione che per quanto riguarda il diritto agli alimenti, all'assegno di mantenimento, questo decade se la persona che continua ad essere mantenuta si è ricostruita in qualche maniera un nucleo familiare, anche non necessariamente sposata. Se esiste una sorta di humus affettivo relazionale per cui c'è una famiglia, beh, saranno pifferi della sua famiglia. Io così la leggo, così la interpreto. Voi come la vedete? Vi cambierà molto la vita questa sentenza? Intanto vi aspetto perché mi segnalate quanto questo è legato a vostre speranze, a vostre attese o anche a vostre frustrazioni. Una ex moglie che lecitamente si è sentita finora in diritto di essere mantenuta, che magari c'è un altro uomo, altri bambini, un'altra famiglia, dice come finisce la pacchia, ma è anche abbastanza grottesco immaginare questa scenetta che bussa l'ex marito, scusa cara, tieni l'assegnino, è lì che presa dalla foga amatoria con l'altro uomo, ci si mette sul comodino, ciao, passa fra un mese, arrivederci. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. L'ho letta in maniera molto colorita la sentenza del 3 aprile? Assolutamente sì, però insomma c'è un fondamento di verità. La ciccia è quella. Sì, sì. Ecco, esattamente, cosa cambia? Ve l'aspettavate? Intanto ricordo Gianetto Regassani, presidente LAMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore del libro I Perplessi Sposi, e, diciamo, la nostra bussola per orientarci nell'universo del post matrimonio. Questa sentenza quale buco va a tappare in sintesi? Ma innanzitutto ce l'aspettavamo, perché dagli ultimi orientamenti, soprattutto i giudici di merito, si tendeva a eliminare l'assegno di mantenimento verso quelle persone, spesso le mogli, che avevano allacciato relazioni more uxorio, cioè andavano a vivere insieme stabilmente, tant'è vero che la Corte d'Appello di Bologna nel 2011 già aveva varato questo principio. Mancava però il sigillo della Suprema Corte. Adesso c'è. Ciò significa fondamentalmente che non è tanto un danno a coloro i quali devono ricevere un assegno, perché non va letta così questa sentenza, ma è una sentenza molto più importante, perché riconosce il significato profondo delle convivenze, cioè un modo indiretto per far capire al legislatore: guardate che noi riteniamo che le convivenze siano qualcosa di stabile, molto più stabile di quanto si possa pensare, tanto è vero che in virtù di questo principio noi riteniamo che, sebbene non ci sia una normativa che le sancisce, noi riteniamo che le coppie more uxorio, sovrapponibili a quelle degli sposati, siano talmente stabili da far revocare appunto l'assegno di mantenimento. Ma si tratta di una sentenza che chiarisce un punto: si tratta di un assegno sospeso, perché nel momento in cui finisce l'amore devi ridargli i soldi. Esatto. Come ti si ripresenta l'ex moglie con la dentiera a 70 anni, dice guarda ma ha lasciato, dice adesso devi mantenermi, perché vige il principio della solidarietà, e quindi si cerca in ogni caso da una parte mettere in stand by un assegno che sarebbe una rendita parassitaria, e tra l'altro anche l'INPS, ma anche gli arretrati bisogna dargli? No, assolutamente no. Ma io ritengo che questo sia un principio assolutamente condivisibile, perché nel momento in cui tu metti su un'altra famiglia non vedo per quale motivo tu debba avere delle rendite parassitarie. Tuttavia, per fortuna, la Cassazione non è che ha sancito un principio definitivo, per cui nel momento in cui quella coppia more uxorio dovesse finire e la moglie si trova in difficoltà, per un principio di solidarietà, laddove ci sono i presupposti, è giusto ripristinare l'assegno. 800 24 00 24, avete qualcosa da dire, da aggiungere, qualche elemento personale di esperienza che potrebbe in qualche maniera corroborare la forza di questa sentenza. Io però intravedo, da quello che mi dice l'avvocato Cassani, un sottotesto di questa sentenza che forse non hanno ancora ben letto, ben intuito, ben afferrato tutti i difensori spasmodici del principio sacrale della famiglia costituita. Beh, la Cassazione dice a tutti gli effetti qualcosa che il diritto ancora non riconosce in pieno, che anche una convivenza è una famiglia a tutti gli effetti, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, educazione e istruzione dei figli. Due persone si vogliono bene, stanno assieme, hanno fatto dei figli, sono una famiglia. Non l'aveva mai detto nessuno in questi termini. È la prima volta che noi leggiamo un provvedimento che dice una cosa del genere. Finalmente dei magistrati hanno il coraggio di rompere gli indugi. Poiché il legislatore non riesce a farlo, lo fa la Cassazione. E consacra l'importanza della famiglia di fatto. Non dimentichiamo che negli ultimi anni le famiglie di fatto al centro nord superano quelle formatesi ultimamente, quelle legate al matrimonio. E quindi la Suprema Corte di Cassazione, ancora una volta in maniera lungimirante, ha sancito un principio cercando di colmare un vuoto normativo. Guarda che singolare questa cosa, Gianettore, lo stiamo noi dicendo qui, ma oggi non l'ho visto ancora scritto sui giornali, perché in realtà la vera notizia è questa. È questa la notizia del secolo. Attorno alla famiglia di fatto, alle unioni di fatto, che si stanno facendo melina, stanno giocando sui compromessi, nessuno ha coraggio, nemmeno le forze politiche che dovrebbero difendere dei punti di vista laici e civili di prendere posizione. A questo punto la Suprema Corte ha aggirato il problema su una sentenza che in realtà pare apparentemente soltanto interessare la banale situazione di un assegno familiare che viene sospeso, però certifica e dà forza e dà esistenza alla famiglia di fatto, dice una famiglia a tutti gli effetti. E infatti io ho sentito altre trasmissioni in cui c'era la polemica sull'assegno sì, l'assegno no, se è giusto o non è giusto, è un falso problema quello. La Suprema Corte ha sfondato un muro di omertà, un muro di conservatorismo in un paese ingessato, perché siamo l'unico paese che non riconosce le coppie di fatto, in effetti sono fuori dal codice, e quindi credo che se letta così la sentenza debba in qualche modo invitare il legislatore a muoversi, perché non è più possibile pensare che milioni di persone che mettono su famiglia, hanno casa, pagano un mutuo, portano i figli a scuola, siano fuori dal codice. Mi fa veramente sorridere il fatto che ancora nessuno l'abbia notato. Io spero che chi porta avanti giuste e condivisibili battaglie civili si renda conto questa mattina che è uno strumento forte da portare sul tavolo delle proprie istanze. La Suprema Corte ha a tutti gli effetti sancito l'esistenza, ma la quasi laica sacralità della famiglia di fatto, perché quando dice che è portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità, cade tutto quello che dice no, la famiglia, soltanto la famiglia quando è regolarmente costituita. No, la famiglia è sempre quando due persone stanno assieme, allevano dei figli, mantengono un percorso comune. Francesco, buongiorno. Francesco Caduto, Andrea. Andrea, buongiorno. Sì. Volevo chiedere all'avvocato premetto, cui... non è l'avvocato risponde rubrica di servizio. No, ma era un'affermazione che ha sì. fatto, quindi volevo intervenire in merito a quella dicendo nel momento in cui la coppia di fatto si dovesse sciogliere, l'ex marito deve o potrebbe essere chiamato ad intervenire nuovamente con l'assegno. Ecco, sì, pare così, sì, sì. Ma è sancito così, non è il mio pensiero, è sancito così, certo, questo è il senso della sentenza. Ma il motivo, ok, ma il senso allora perché non far intervenire anche il compagno? Non ha torto, perché non dividere al 50%? Perché? È quello che se è spupazzato la moglie per altri 10 anni, anche lui dia un pochino di contributo, mi sembra. Perché logico. In questo momento non è possibile obbligare l'ex compagno perché le convivenze non sono normate. Poi guarda che intreccio. La domanda fantastica, questa è una domanda fantastica. Che Andrea ha il problema in famiglia, quindi evidentemente conosce bene la cosa. Però Andrea ha ragione, scusa, la sentenza in sé sancisce in maniera rivoluzionaria l'esistenza della coppia di fatto. Però fai i soldi sempre lo sposato. Però i soldi sempre chi è sposato. È così, Andrea? Fantastico. Tocca sempre a lei, non ci sono santi. La sua ex moglie potrà passare di fiore in fiore, però alla fine ogni volta tornerà da lei e dice: guarda, dammi un rinforzino questi mesi finché elaboro il lutto dell'amore finito, perché poi quando ne ritrovo un altro risospendiamo un attimo. Non ci avevo pensato. Prova così, ci ha dato uno spunto fantastico. Sì, però effetti è un controsenso. Sì. Perché sancisce che esiste la coppia di fatto, ma no, non dà lo stesso dovere. Però la Cassazione non può creare le norme, può in qualche modo utilizzare dei principi, ma non può addirittura fare le norme del codice, per cui da una parte si tratta di una grande sentenza rivoluzionaria e provocatoria, dall'altra appunto per arrivare alle conclusioni che ha fatto il radioascoltatore, ha fatto una conclusione. Lecite e giuste? Assolutamente sì, pertinenti sotto ogni profilo, beh, ci vuole che il legislatore metta mano a questa legge, insomma. Al momento, se io dovessi leggere quello che ci stiamo dicendo e fossi in una situazione di nubilato, direi mai sposarsi, amare fino alla follia, fare la vita assieme, intestarsi gli averi in modo che c'è una sicurezza, ma mai sposarsi a questo punto. Ma io credo che bisogna trovare degli incentivi per il matrimonio, che resta comunque una forma importante di mettere su famiglia. Però se consideriamo che il legislatore ha sfornato la legge sul divorzio lampo, di separazione lampo, praticamente tu con 16 euro firmi un modulo e sfasci un matrimonio in 5 minuti, questa sacralità, questa indissolubilità dov'è? Quindi a questo punto regolamentiamo le coppie di fatto e basta. Paolo, buongiorno. Paolo. Buongiorno a lei. Mi chiamo Paolo, chiamo da Roma. Volevo intervenire su qualcosa, però già le hanno fatto... No, ma la ridica a modo suo, vediamo, ribadiamo, visto che sempre è il problema fondamentale. Io ho una moglie, ce l'avevo, l'ho lasciata. Se l'hai presa un altro. L'ho lasciato, pago da 50 anni, 40 anni il mantenimento, lei si mette con un'altra persona che, come ha detto lei, se l'ha scopata 10-15 anni, sì. Poi la lascia e ritorna il cornuto il primo a pagare. Certo, è così, la legge è così, purtroppo è così, è esattamente. La legislazione possa non fare leggi, fa le sentenze, poi se viene applicata. Guardi, questa è un'altra cosa, però sono felice perché mi piace che emerge da questa trasmissione. Io non ho ancora visto sul giornale questo problema, in tutte le letture che ho visto, questo problema che in realtà alla fine gira e ti rigira, e chi se l'è sposata per primo la persona, non diciamo la moglie, perché nella maggior parte dei casi però è il marito che mantiene la moglie. Resta l'unico pagatore, questo va detto, in questo diciamo l'identità di genere non ha senso. Però devo anche dire che molte donne oggi l'assegno non lo vogliono, molte lavorano, quindi insomma non vorrei far passare poi il genere femminile predatorio. Anche insomma. Se lavorano, però, nessuno ci sputa sui soldi che ti deve dare una persona che odi a quel punto. Assolutamente, però in effetti se la donna ha dei mezzi di sussistenza propri perde il diritto all'assegno, salvo che non c'è una differenza enorme tra lei e il regio e il marito. Allora, un istante, e perché diamo l'informazione del traffico, però ti pongo già la riflessione per la fase successiva di questa trasmissione. A questo punto una persona divorziata potrà sì riavere altre storie, ma dovrà vivere clandestinamente, ancora peggio che fosse un adultero, perché almeno per una donna è l'unica maniera per mantenere i soldi. Quindi la donna divorziata dovrà vivere con i propri compagni come fossero gli amanti, clandestinamente. Sì, sì, i fidanzati. Infatti adesso nascosti, c'è la nuova moda ancora. Io penso che adesso, già stasera si stanno studiando le soluzioni. Si fanno i fidanzati, una notte si dorme da lui, una notte si dorme da lei, così non c'è la convivenza morale. Nei motel clandestini, uscendo da, da porte secondarie e mettendosi gli occhiali neri. Cioè una donna divorziata non potrà avere una relazione perché rischia la perdita dei soldi. Melog, cronache meridiane. È fantastico perché ci stiamo addentrando nei sottotesti, nei significati metaforici, nelle chiavi nascoste della sentenza 6855 del 3 aprile 2015 della prima sezione civile della Cassazione, che in pratica stabilisce l'interruzione dell'assegno al mantenimento nei confronti di un ex coniuge se questo ha un'unione a tutti gli effetti, non necessariamente risposato, anche un'unione moruxor, perché è sancito che questa unione a tutti gli effetti è un'unione. Abbiamo capito però che in realtà sussiste un problema: quando questa unione termina, naturalmente è il primo marito a dover risubentrare. Potrebbe accadere un'infinità di volte, per paradosso, nel corso della vita di un uomo, che puntualmente gli si ripresenta l'ex moglie, cioè, caro, è finita la mia storia d'amore, non ci amiamo più, risgancia i soldi, così mi pago un po' di psicanalista, un po' di vacanze alle Bahamas, mi prendo un po', mi faccio un altro lifting e mi ributto nel tourbillon. E lui non deve altro che sperare che accada questo, si rinnamori, che rivala con un'altra persona, così non deve più pagarla. Però sussiste un altro problema: come si fa a capire e determinare che l'ex coniuge ha una unione moruxorio? Mica te lo viene a dire, chiaro, fa finta di niente, dirà ma sai, un amico, l'idraulico, è un parente, è un cugino, è un lontano conoscente, è il prete che mi viene a confessare tutte le sere, non ti dirà mai sto con un'altra persona se questo interrompe il flusso di denaro. Ma non è detto che le donne siano tutte quante pronte a nascondere la verità. Ci sono molte che lo riconoscerebbero con grande dignità. Però ovviamente l'onere della prova spetta al marito, il quale dovrebbe poi in tribunale dimostrare che c'è una convivenza stabile, monoxorio, in quell'appartamento, attraverso un'investigazione. Basta avere un investigatore. È come se, come le prove testimoniali. Come uno che deve dimostrare le corna per avere la separazione, deve dimostrare il monoxorio per non dare i soldi. Assolutamente. Devi provare quello che sostieni, perché siccome la portata è enorme di quello che è il risultato che vuoi ottenere, devi provarlo, non basta dichiararlo. Ed ecco perché sicuramente ci saranno poi gli escamotage di gente che non vorrà più convivere insieme, magari se ci sono degli assegni consistenti. Prenderanno residenze in altri. Se è una donna che prende un assegno, quasi sempre sono le donne, qualche volta anche gli uomini prendono gli assegni, ma si tratta di un assegno. Qual è il rapporto percentuale? Ma non, 1 a 10. Sì, sì. Ecco, non c'è paragone. Comunque, in ogni caso, se si tratta di assegni di poco valore, non c'è problema, ma ci sono, io conosco tante cause, insomma, ce ne siamo occupati, cause con decine di migliaia di euro di mantenimento. Beh, penso che quella moglie ci penserà due volte prima di convivere con la ragioniere Rossi. Qui c'hanno degli scamotage, prendere due appartamenti nello stesso stabile con faranno una scala fidanzati, fanno sicurezza. La legge non dice nulla alla creazione di nuove relazioni sentimentali. No, potrebbe un escamotage essere ognuno dei due nuovi fidanzati si trova un amante, così di fronte al giudice dice: guarda, non sto con questo fisso, anche un'altra persona, pagandolo naturalmente finto. Io penso che la Cassazione abbia ragionato molto bene, molto attentamente, una sezione importante, perché ci sono stati dei casi in cui la moglie conviveva con un, ad esempio, un grande imprenditore, l'ex marito era un impiegato, un operaio che doveva continuare a pagare la metà dello stipendio. Così, è allucinante, è una cosa vergognosa. Allora, in base anche a questi fenomeni, e non sono stati pochi, è evidente che poi la Suprema Corte di Cassazione doveva intervenire, e ha fatto bene da questo punto di vista. Insomma. Ho questa mattina soltanto telefonate di maschi, ma me l'aspettavo. 800240024. Rosario, buongiorno. Buongiorno a tutti e due, salve. Io volevo porre un quesito. C'è un limite temporale oltre il quale praticamente è applicabile questo dispositivo della Cassazione? Oppure una scappatella, non lo so, deve durare una settimana, un mese, un anno per essere definita una vera e propria relazione? Dipende, diciamo, di solito alla terza botta comincia ad entrare relazione, poi non lo so adesso se giuridicamente vale questo principio. No, ci deve essere, ecco, non c'è ancora un limite temporale perché siamo proprio freschi di sentenza. Credo che stabiliremo, saranno stabiliti sicuramente dei parametri, ma certo è che vivere sotto lo stesso tetto, stare magari nello stesso stato di famiglia, magari acquistare una casa e accollarsi in mutuo, mi pare che questo rappresenti una stabilità. Ovviamente un mese di convivenza non già si chiede alla donna divorziata o all'uomo divorziato, a seconda dei casi, il voto di castità. Il diritto ad avere una propria sessualità, un proprio assetto sentimentale non si discute. Qua il problema è stabilire se c'è il cumulo dei redditi. Se tu stai con un uomo ricchissimo che viene a vivere in casa tua, che magari è stata la casa del marito, ritengo impossibile ritenere ingiusta la sentenza della Cassazione che prevede che l'assegno debba finire. È vergognoso accettare ancora una situazione di questo. Io non credo che sia la frequenza dei rapporti, se la stabilità di alcuni rapporti giuridici stabiliscono fra le persone, pagare assieme il mutuo, pagare assieme l'affitto, fare le vacanze assieme. Lorenzo veloce. Buongiorno, io volevo dire che secondo me le coppie che oggi stanno insieme di fatto non vogliono la parificazione, è sconveniente dal punto di vista economico. Ci state parlando di una realtà che è ideologizzata, ma nel concreto è assolutamente controproducente essere cioè non conviene essere coppie di fatto, ma assolutamente no, perché in quel modo si accumulano i redditi, vieni tassato di più, quindi oggi chi fa la coppia di fatto cerca proprio di non essere riconosciuto, perché così risparmia. Questa è la mia esperienza. È vero, Gianetto? Ma dipende dai punti di vista, dipende dalle situazioni. Dal punto di vista economico posso essere anche d'accordo, ma dal punto di vista morale, sociale, di conoscimento sociale di una famiglia, beh, questo è un fatto molto grave. Importante. Giorgio, chiudiamo con Giorgio, poi velocemente, proprio un istante. Buongiorno, mi avete già anticipato. Praticamente il coniuge beneficiario dell'assegno farà di tutto per cercare di nascondere questa convivenza amore uxorio, quindi prenderà la residenza dalla sorella, dalla zia, dalla nonna. No, non è importante quella. Non è importante la residenza, è il fatto, è il dato di fatto, sì. Sì, sì, no, da un punto di vista formale, sicuramente non si metterà nello stato di famiglia con il nuovo compagno. Ah, beh, quello certo. dirà come Claudio Accol, che ha trovato l'illuminazione, che è diventato mistico, che non consuma più, si fingerà gay, farà di tutto secondo noi pur di non dimostrare che sta con un'altra persona in casa, dirà mi sono fatto santo. Beh, sarà divertente vedere gli sviluppi di questa sentenza, saranno concreti, l'avvocato Gassani sarà con noi a confermarci. A domani.